È una lettura a concerto che coinvolge amici storici del festival, sia gli autori, cioè i Wu Ming, sia i musicisti e l'attore che vedrete adesso in scena. Il titolo che abbiamo dato a questo reading è Hallo Moro, e gioca, chi ha letto il libro capisce bene qual è il gioco di parole, e chi non l'ha ancora letto lo leggerà, perché qui a disposizione della libreria e potrà magari dirci. Quindi vi invito a fare un grande applauso a La Città di Notte e Felice Montevideo. Chiamiamo bello il segno che ci conduce verso l'interpretazione dell'enigma. Questa è la storia delle vite che si incrociarono nella primavera del 1978 alle pendici del Monte Quarzerone. E se di una vita non si possono conoscere tutte le pieghe, le luci, le ombre, si può almeno provare a raccontarla usando documenti, interviste, libri e giornali d'epoca, consapevoli dell'incolmabile distanza tra i giorni vissuti e le pagine scritte. Del resto, la sfida del narrare è raggiungere la verità affrontando l'ineffabile, si trattasse anche di lupi mannari o dischi volanti. Thank you. ci occuperemo nel nostro giornale. Da ieri pomeriggio non si spara più nel Libano meridionale. Le forze israeliane continuano a presidiare tutta la zona che hanno battuto palmo a palmo per rappresaglia contro il raid palestinese di sabato scorso. Il presidente del Consiglio Andreotti illustra questa mattina alla Camera e al Senato il programma del nuovo governo. La mattina di quel giovedì 16 marzo 1978, Martin Zanca, all'anagrafe Gianmaria Zanchini, 54enne piemontese ma ormai romano d'adozione, una carriera da cronista di nera alle spalle, ora affermato autore di best seller a tema paleocosmonautico, era in bagno, col rasoio in mano, le guance insaponate e in grave debito di sonno, mentre dalla mensola sotto lo specchio, tra il dentifricio e il deodorante, la radiolina parlava con la voce familiare di Cesare Palandri. C'erano stati anni in cui una simile notizia, la nascita del nuovo governo, e non un governo qualsiasi, ma quel governo, avrebbe calamitato l'attenzione di Gianmaria Zanchini con giorni, anzi settimane di anticipo, ne avrebbe discusso con i compagni, colleghi e amici, avrebbe seguito sull'unità i preparativi e le manovre. Per la prima volta, dopo 30 anni di guerra fredda e convenzio ad excludendum, il Partito Comunista entrava in una maggioranza di governo accanto al suo storico avversario, la Democrazia Cristiana. E invece Zanca non riusciva a interessarsene. Tra lui e il partito era cresciuta una mutua disaffezione, gli intellettuali organici snobbavano i suoi libri, i razionalistici e di evasione. Di contro, lui non rinnovava la tessera dal 69, certo le elezioni votava ancora PC, ma lo guardava con crescente disincanto. E poi, a ben vedere l'evento, andava ridimensionato, il PC non era più all'opposizione da quasi 2 anni, per la precisione dal luglio del 76, quando aveva consentito la formazione del governo Andreotti III, astenendosi invece di votare contro. Politica che sarebbe passata alla storia come non sfiducia. Un classico esempio di litote. Litote, la figura retorica dei paraculi. Quella con cui, invece che affermare qualcosa, si negava il suo contrario. E non a caso Pierpaolo Pasolini aveva definito i dirigenti del PC amanti della litote. Zanca si lavò il viso con l'acqua calda, si massaggiò le guance con il dopobarba e uscì in corridoio. Poteva fare colazione e vestirsi con calma. Aveva prenotato il taxi per le 9 e non voleva iniziare una giornata faticosa con lo stress della guida nel traffico di Roma. Passarono il Tevere al Ponte dell'Industria e superarono Porta San Paolo in direzione del Colosseo. Zanca viveva a Roma da più di 20 anni, eppure ogni volta che attraversava la città, oltre il raggio delle solite passeggiate, si ritrovava a nominare i luoghi come incrociando un conoscente che si vede di rado. Sul taxi, poi, riviveva l'esperienza tipica del nuovo arrivato, che segue il percorso con apprensione per paura che lo portino in giro, prolungando il tragitto e raddoppiando la tariffa. Di fronte al rosso di un semaforo sulla Merulana, un commento del tassista distolse Zanca dai suoi pensieri. E che sarà mai capitato, mo? Sotto, appena scalfita da un'incrinatura d'angoscia, la voce radiofonica di Cesare Palandri suonava insolita. Purtroppo sembra sia vero, il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Mortacci loro! Esclamò il tassista alla guida. L'inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. I terroristi avrebbero sparato contro la scorta che accompagnava il presidente democristiano, avrebbero poi caricato a viva forza l'onorevole Moro su di una macchina e si sarebbero allontanati facendo perdere le loro tracce. Non sappiamo altro per il momento. C'è da aggiungere che la scorta dell'onorevole Moro era composta da 5 agenti. Sarebbero tutti morti. 5 agenti stecchiti. Ma che ci avevano questi terroristi? Il raggio dalla morte! Il tassista inserì la freccia, sterzò a destra e accostò in seconda fila. Molte vetture facevano lo stesso. Mentre il semaforo diventava verde, la colonna d'auto restava immobile e l'orchestra dei clacson attaccava la sinfonia dell'ingorgo. La faccia del tassista spuntò tra i poggiatesta dei 2 sedili anteriori. Mio cognato me l'ha detto proprio domenica, guarda che quello finisce male, i comunisti al governo coi democristiani, ma quando mai? Aldo Moro era stato l'architetto della nuova intesa tra DC e PCI. Secondo il cognato del tassista, e non solo secondo lui, nel fare questo Moro si era esposto, aveva sfidato gli schieramenti consolidati e adesso la pagava. Intanto sul marciapiede si erano già formati due capannelli stretti alle antenne telescopiche di altrettante radioline. I commercianti uscivano sulla soglia dei negozi. Dalla porta di un bar un energumeno gridava con le mani a coppa intorno alla bocca: Mario! Scendi, hanno ammazzato Moro! Zanca si lasciò andare sullo schienale di pelle, stordito dal peso della notizia. Rapire uno così? Ma possibile? Come fai a portarti via uno come Aldo Moro? Come lo nascondi un prigioniero del genere? A professore, meno male che l'albergo sta qua dietro, sennò qua, chissà quando arrivava, qua ci tocca una giornata da manicomio. Zanca si passò le mani sul viso. Aveva ragione un tassista. Ma che ne sarebbe stato del suo convegno? Potevano mettersi a parlare di UFO con 5 cadaveri ancora caldi sull'asfalto. Le ore successive furono un susseguirsi di falsi allarmi e notizie incontrollate. Voci di una bomba esplosa su un autobus a via Cavour. Una sparatoria a Fiumicino. A pressione alle stelle, telefonate a tutto spiano e nulla di vero. Le vie si svuotavano, le saracinesche si abbassavano. I bambini uscivano in anticipo da scuola accompagnati da genitori impauriti. Il presidente del consiglio Giulio Andreotti parlò alla nazione a reti unificate. La compattezza delle forze politiche, di quelle sindacali, in questo assolutamente concordi, deve costituire la base di una sempre più vigorosa azione psicologica e tecnica per ottenere che l'Italia non abbia a precipitare in una spirale di insicurezza e di ingovernabilità. Poi cominciarono a uscire le edizioni straordinarie dei giornali. Feroce sfida allo Stato Democratico! Moro rapito! Rabbia e sgomento nel paese! Moro rapito dalle Brigate Rosse! I nemici della democrazia non passeranno! Fin da subito, un'atmosfera nordirlandese si addensò. Prima su Roma e poi su tutto il paese. Nel periodo del sequestro Moro, le forze dell'ordine e l'esercito allestirono oltre 72.000 posti di blocco. Il cosiddetto decreto Moro del 21 marzo, primo di una lunga serie di leggi speciali, introdusse il fermo di identificazione. Si poteva essere portati e trattenuti in questura anche per 24 ore e interrogati in assenza di un legale. Non solo, il decreto dava mano libera agli inquirenti sulle intercettazioni telefoniche e ambientali anche preventive, cioè senza indizi di reato. Anni dopo sarebbero affiorate testimonianze sulle torture ai danni di alcuni sospetti, come il supplizio dell'acqua e del sale, che un funzionario del Ministero degli Interni, soprannominato De Tormentis, inflisse in tutta Italia. Il soggetto veniva spogliato e bloccato su un tavolo, poi gli si ficcava un tubo in bocca e lo si costringeva a ingurgitare litri di acqua alternati a manciate di sale. Per tutto il corso del sequestro, e ancora per diversi mesi dopo la sua conclusione, non ci sarebbe stato alcun dibattito parlamentare sulle leggi speciali, sulla gestione dell'emergenza, su quanto di straordinario e non identificato stava accadendo. Guardo giù, la notte è fredda ed in silenzio avvolge tutto quello. mi guardi con gli occhi gravi, sei più lontana e bella che mai. Scrivo la lista del tempo perso, che quello buono non tornerà. In equilibrio su questo verso, non mi ricordo. Hanno portato l'attacco al cuore dello Stato. Lo Stato ha raccolto la sfida e ne scarica il peso sulla vita delle persone. Moro è prigioniero nel carcere del popolo, mentre l'evocato popolo viene imprigionato a cielo aperto. Lo stato d'emergenza passa sopra tutto e tutti, e chi ha qualcosa da obiettare prova ad attenderlo il fuoco di fila di cecchini scelti, pronti a impallinarlo sui giornali, ad additarlo all'odio della gente, per bene. Schiacciava sotto un bagliore grigio metallo. Provò a tirarsi su, ma le finte tempestavano il corpo. Ricadde, disteso nell'erba, fiato spezzato. Il freddo gli fece battere i denti mentre si tastava in cerca di ferite. Giacca e pantaloni erano umidi e infangati. Portò le dita alla fronte e se le ritrovò sporche di sangue e rappreso un taglio sopra la tempia destra. Sbirciò intorno, con la mano a schermare gli occhi, un prato bagnato di pioggia al limitare di un bosco. Il sole era coperto, impossibile orientarsi. L'orologio al polso fermo alle 12:15, mezzogiorno, mezzanotte. Ricordò che era uscito di casa, sì, col buio, per una delle sue serate di avvistamento. Aveva caricato il telescopio nel bagagliaio della Diane ed era salito sul Monte Quarzerone, al vecchio capanno di caccia di suo nonno. Dentro ci teneva poche cose, no? Un paio di stivali di gomma, un cambio d'abiti, una bussola, il rilevatore GNDN. Con quelli e col telescopio si era sistemato nella radura di fronte. Era una serata limpida. Le nuvole e la pioggia dovevano essere arrivate dopo. Sì, dopo. Ma dopo... dopo cosa? Perché si trovava lì? E dov'era lì? Raccolse le forze e si mise in piedi. Fece qualche passo, di nuovo si toccò la fronte. Come in un super 8, proiettato per pochi secondi, vide se stesso rannicchiato a terra, trafitto da scariche di dolore intenso. Sentì stringersi lo stomaco, ma si sforzò di camminare in cerca di un punto di riferimento finché non intravide il paese all'imboccatura della valle. Capì dove si trovava. I pensieri procedevano al rallentatore, come impigliati tra i rami degli alberi. Poi arrivò un'altra sequenza di fotogrammi veloci. Sagome altissime, bipedi, schierate davanti a lui in controluce. Alle loro spalle un faro potentissimo, un sole notturno sorto all'improvviso. Grandi teste ovali e pelle nera lucida. Risentì la propria voce rotta dall'ansia a pronunciare la domanda. Chi siete? Subito dopo quelle scariche di dolore nel corpo e nella testa e una forza irresistibile che lo sollevava e lo portava via. Si sforzò nuovamente di rammentare, sì, allora aveva piazzato i lumini, sì, li aveva accesi, sì, si era messo al telescopio e mentre cercava nell'obiettivo aveva colto un baluginare di luci poco sotto la cima del monte, una zona isolata, raggiungibile solo a piedi. Il fenomeno si era ripetuto un paio di volte, sembrava che la sorgente luminosa si spostasse, allora aveva caricato in fretta l'attrezzatura e si era messo alla guida. No. No, no, no, no, no, non subito, no. Prima aveva acceso il baracchino, sì, aveva selezionato il canale dove di solito parlava con gli astrofili della zona, voleva capire se quelle luci si vedevano anche da Morrona o dal Borgo Sastro, aveva riconosciuto alcune voci e stava per inserirsi, ma lo strumento si era spento. Ogni tentativo di riavviarlo era stato inutile, e allora cosa? Allora cosa era successo? Era arrivato in auto, sì, su questo nessun dubbio, sì, con l'auto doveva essersi fermato alla radura, certo. Guardò ancora il panorama, guardò il profilo del crinale, i ricordi continuavano ad affiorare più nitidi. Ecco, sì, sì, è andata così. Allora, aveva recuperato il rilevatore GNDN, non appena l'aveva acceso, quello aveva crepitato per spegnersi subito e non riaccendersi più. Quindi poi era salito sulla Diane e l'aveva messa in moto pregando che non morisse anche quella. Aveva guidato come un pilota di rally mentre i fari illuminavano gli spettri degli alberi che incombevano sulla strada. L'ultima cosa che ricordava era di aver impugnato la torcia elettrica e di aver imboccato il sentiero che saliva alla vetta. Ed ecco, il terzo flashback. La torcia si era spenta e un istante dopo la grande luce lo aveva assalito ed erano comparse quelle creature altissime. Chi siete? Se li era trovati addosso, ciclopi dai grandi occhi interamente neri, colpi, dolore e infine la sensazione di fluttuare nell'aria. Ma quanto tempo era passato? Il luccichio sul quarzerone lo aveva visto a inizio serata, dovevano essere le 9 passate, altri 30 minuti poi tra i tentativi al baracchino e la salita in auto, all'incirca, dai, saranno state le 10, e poi aveva perso conoscenza. Ma fino a quando? Fino a mattina inoltrata. Ma possibile? E perché? Perché non era di fianco alla sua auto? Dove l'avevano portato? Dove era stato per tutte quelle ore? Finalmente sbucò nella radura, vide la Diane parcheggiata sotto gli alberi, entrò nell'abitacolo, ma il motore non partì. Soltanto in quel momento si rese conto che era lunedì mattina e che sarebbe dovuto essere al lavoro già da un pezzo. A piedi da lì al paese ci voleva almeno un'ora. Chiuse la Diane, si incamminò giù per la mulattiera premendo una mano sotto il fianco destro dove una fitta lo trafiggeva ad ogni passo. L'orologio del municipio segnava le 9:40 quando l'usciere lo osservò entrare con tanto d'occhi. E non solo per il sangue in faccia e l'aspetto stazionato, ma anche perché Filippo Bernacca, in 20 anni di onorato servizio al comune di Forravalle, non era mai arrivato al lavoro in ritardo, nemmeno una volta. vivo nello spazio. Buonasera e benvenuti a Luci nella Notte, una trasmissione a cura del GrowCat, gruppo ricercatori ufologi e clipeologi associati Torino, che ogni settimana vi parlerà di oggetti volanti non identificati, di ricerche sulle comunicazioni interplanetarie, di archeologia spaziale e tutto quanto riguarda la possibilità che l'universo nasconda ulteriori forme di vita capaci di entrare in contatto con l'umanità. Signori, possiamo dirlo a chiare note ormai? È una vera invasione. Sui giornali, al cinema, nel teatro, in televisione, nei cieli. Se continua così, il 1978 passerà alla storia come l'anno dei dischi volanti. Oggi, signori, a tenervi compagnia fino alle 23 c'è il sottoscritto Matteo Bonino. In questa puntata d'esordio ci occuperemo di un incontro ravvicinato, il cosiddetto caso Bernacca, del quale hanno scritto anche diverse riviste quotidiane, compresa La Stampa. Vi invitiamo quindi a telefonarci se volete intervenire, farci domande, condividere la vostra opinione. Se volete mettervi in contatto con noi, chiamate il 2430 13011, per chi chiama da fuori Torino. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro amico Spillo, che oggi ci aiuta qui alla console e ci affiancherà per alcune delle puntate del programma, finché noi non avremo più dimestichezze. Intanto però facciamo un'altra pausa musicale e torniamo da voi alla fine di questo pezzo. Fuori onda, il regista spiegò che in linea c'era un tizio di nome Giuseppe che voleva intervenire sul caso Bernacca. Schiacciò un tasto e mise la chiamata in attesa. Va bene, abbiamo la prima telefonata. Buonasera, ci senti Giuseppe? Certamente, forte e chiaro vi sento. Giuseppe ha telefonato in merito all'avvistamento del Monte Quarzerone, vero? Che cosa hai da dirci in proposito? Smitragliante come un fucile d'assalto, detonò in studio la pernacchia più spropositata che avessero mai sentito. Sembrava di vedere le gocce di sputo piovere dagli altoparlanti e invece di interrompere la chiamata, il regista la tenne in onda fino alla fine, finché Giuseppe non terminò il fiato e riattaccò. Ma mi è parso di capire che si tratta di una critica. Purtroppo il nostro amico Giuseppe ha riattaccato prima che noi potessimo domandargli a chi era diretto il suo sberleffo, perché se il bersaglio era il Bernacca, noi non possiamo che dargli torto. Il conduttore, Matteo Bonino, spiegò che nel pensiero comune gli ufologi erano dei creduloni convinti che ogni oggetto volante fosse un'astronave. Al contrario, molti di loro partivano da una posizione scettica e svisceravano i singoli avvistamenti per scartare le fanfaluche e occuparsi più a fondo dei casi che resistevano alle obiezioni irrazionali. Quello di Bernacca rientrava a pieno titolo nella prima categoria. La lampadina rossa brillò di nuovo e un altro ascoltatore venne messo in onda. Ciao, sono Walter. Vorrei sapere se qualcuno di sottoporre Bernacca a una seduta di ipnosi regressiva. Cosa ne pensate voi dell'ipnosi come tecnica per saggiare l'attendibilità di chi dice di avere avuto contatti con extraterrestri? Grazie. Aveva parlato troppo spedito, come se leggesse chiuso troppo in fretta, come se avesse paura d'essere scoperto. Walter doveva essere un amico dei suoi ufologi, incaricato di fare una domanda programmata, anzi forse era proprio uno del GrowCat. Ma grazie della domanda, Walter! E partì con una risposta che aveva anch'essa l'aria di essere stata preparata. Sì, in effetti lo stesso Barracca ha parlato della possibilità di farsi ipnotizzare. Sinceramente, noi del Grucat non crediamo che rivivere sotto ipnosi l'esperienza del contatto sia un metodo affidabile per verificare l'attendibilità dei testimoni. La lampadina delle telefonate si è accesa ancora. E dopo il consueto scambio di gesti, la nuova chiamata venne messa in onda. L'ascoltatrice disse di chiamarsi Carmen. Aveva una voce grave, quasi cavernosa, simile a quella della cantante Amanda Lear. Salve. Di solito a quest'ora ascoltavo Radio Frocia. Ma che fine ha fatto? Non è che le avete cacciate per oscenità. A me piacevano un sacco. Facevano politica parlando di scopate. Perché il personale è politico, no? Il personale, dico, è politico, no? Però mica tutti hanno capito cosa vuol dire, no? C'è chi pensa che per fare politica basta che mi occupo dei cazzi miei. E c'è chi invece ne ha dedotto che i cazzi miei non sono mai miei e basta. Quindi tocca farsi i cazzi di tutte e di tutti. Che è la politica poi, no? Scusa Carmen, ma io non ti seguo. Ti faccio un esempio. Se tu c'hai la tosse e mi parli per mezz'ora della tua tosse, ti stai facendo i cazzi tuoi. Se tu hai questa tosse e mi parli per mezz'ora dell'inquinamento che te l'ha fatta venire, della fabbrica che te l'ha peggiorata, del medico che non te la cura perché ha troppi pazienti, tu ti stai facendo i cazzi di tutte e di tutti. Mi sono spiegata? Sì, Carmen, però noi non siamo una trasmissione che parla di oggetti volanti. Cioè, noi siamo una trasmissione che parla di oggetti volanti non identificati, non di salute. È qui che ti volevo, mio caro. Perché con gli UFO il discorso è lo stesso. C'è questo tizio, no, che dice che i marziani l'hanno picchiato in montagna. E chi se ne frega, dico io, no? È così importante dimostrare che non erano davvero extraterrestri? Cioè, se uno ci vuole credere, di sicuro non smette perché glielo dici tu. Voglio dire, giù in strada c'è la guerra civile, la repressione, la gente che va in carcere per un volantino, l'eroina che ci ammazza noi. Ma ti pare che me la devo prendere con uno che vede i marziani? Ma beato lui, dico! E comunque, cazzi suoi. Se invece tu gli vuoi fare le pulci e pretendi che io t'ascolti, allora mi devi spiegare per quale motivo i suoi extraterrestri non sono solo cazzi suoi o solo vostri, che lo mettete in croce perché lui li vede e voi no. Altrimenti io ti spernacchio, come ha fatto l'amico di prima al telefono, il Giuseppe. Hai capito? Sei stata chiarissima, Carmen. Certo, grazie del tuo contributo. ambiente chiuso, a pianta semicircolare. Dall'altezza dello sterno al soffitto, la lunghissima parete curva è tutta una vetrata, un unico pannello trasparente da un margine all'altro del campo visivo. Sotto, una distesa di macchinari e pulsantiere, schermi, quadranti, manopole e cloche. È l'astronave di incontri ravvicinati del terzo tipo. Fuori c'è la notte stellata. Milena guarda in basso, riconosce la sagoma del Monte Guarzerone e il borgo di Furravalle, la radura di Pian del Cielo e punteggiata di piccole luci. Sono fuochi fatui. Al centro della sala, sopra un piedistallo lucido, un uomo siede a gambe incrociate e rinchiuso in un parallelepipedo trasparente, una membrana appena percettibile lo tiene prigioniero. È Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana ha l'abito sgualcito, la barba di più giorni, i capelli in disordine. Quando vede Milena, mormora qualcosa. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità. Milena non coglie la fine della frase. Dalla parete a cui dalle spalle giungono un rumore e una corrente d'aria si è aperta una porta scorrevole, un corridoio avvolto nella luce. Varcano la soglia. 5 extraterrestri sono esili e hanno grandi teste, si dispongono accanto al cubicolo di Moro e quello al centro gesticola verso Milena, anzi quella al centro sono femmine. Le altre restano impassibili, le braccia distese lungo i corpi bianchi e traslucidi. Io non capisco. Milena distinto protende il capo in avanti, l'aliena indica Moro, poi si indica la bocca, poi indica Milena. Devo tradurre. Moro si alza, le si avvicina. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità. Milena scuote il capo, guarda le aliene. Mi dispiace, io non riesco, non capisco cosa dice. L'aliena le dice qualcosa, ha una voce da contralto e parla una lingua che sembra tedesco. Milena non capisce ed è sempre più agitata. Le aliene annuiscono, poi formano un capannello, si consultano per pochi secondi ed infine la portavoce comunica il responso. Noi lasceremo andare Moro e tutti gli altri, ma voi dovete restituirci Dero Power. Il contadino chiede Milena. No! David Bowie! E a quel punto, come nei film, la sveglia suona. Ed è martedì, 9 maggio 1978. Poco dopo l'ora di pranzo, radio e TV diedero notizia del ritrovamento a Roma del corpo senza vita di Aldo Moro. Stava nel bagagliaio di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani a metà strada tra la sede nazionale del PCI e quella della DC. Un chiaro messaggio ai due partiti del compromesso storico e della fermezza. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità è inammissibile. Nelle notti che seguirono, molti altri sognarono il politico ucciso. Ecco un incubo che feci io. Allora, Moro mi appare in veste di compagno di classe, seduto al banco accanto al mio. Io ho 8 anni e mezzo, ma lui È adulto, è dimesso, uguale come lo mostrano le foto della prigione del popolo. Il maestro lo sta interrogando, ma lui ha il volto coperto da un passo montagna. Parlaci dello Sim, Moro! Moro balbetta e non risponde. Forza, Moro, non costringermi a darti un brutto voto. Che cos'è lo Sim? Dai, che ne abbiamo parlato tante volte. Ragazzi, chi sa rispondere a questa domanda? Io alzo la mano, contento di poter fare bella figura. È lo stato imperialista delle multinazionali. Il maestro si complimenta con me. Dopodiché estrae una pistola, una P38, se la punta alla tempia. Mentre tiro il grilletto, io mi sveglio, fradicio di sudore. Prolungatelo l'applauso, prolungatelo, che viene monocomodo.